Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Edizione speciale. Domande e risposte sul coronavirus. Buongiorno a voi e benvenuti. Questo spazio è fatto da voi, per voi e con voi. Da oggi, infatti, gli esperti della SIMIT, che è la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, rispondono ai dubbi e alle domande più frequenti che ogni giorno in diretta in questo spazio dalle 10.45 alle 11. Passeremo in rassegna, selezioneremo quelle che hanno un maggior interesse e altre verranno invece messe sulla pagina dedicata e riceveranno naturalmente le risposte puntuali dei nostri esperti. Per fare le domande potete mandare un SMS o un WhatsApp al numero 335 100 6297. Lo trovate comunque sul sito di Radio 24. Saluto allora gli esperti di oggi: il professor Marcello Ottavio, presidente SIMIT e direttore dell'unità operativa di malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. È in linea con noi anche un altro esperto della SIMIT, il professor Carlo Federico Perno, che ci raggiungerà, ordinario di microbiologia e virologia all'Università di Milano e dirige il Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell'Ospedale Niguarda di Milano. Professor Ottavio, vengo subito a lei con una domanda naturalmente che pensiamo sia utile di interesse per i nostri ascoltatori. L'abbiamo selezionata quelle che ci scrive. Supponendo che vada al ristorante e il cameriere o il cuoco siano affetti da coronavirus, inavvertitamente starnutiscono, tossiscono e il virus si depositi nel cibo, inghiottendolo vengo contagiata dal virus, quindi si trasmette anche attraverso il tratto gastrointestinale o no? Oppure, ci scrive sempre l'ascoltatore, compro l'insalata, il fruttivendolo ha il coronavirus, lo deposita attraverso lo starnuto o un colpo di tosse nell'insalata stessa, lavandola il virus viene eliminato col lavaggio ad acqua o e bicarbonato? Grazie, ci scrive. Ok, allora, per quanto riguarda la domanda tecnica, cioè se si trasmette attraverso il tratto gastrointestinale, la risposta è no. Quindi bisogna che il virus depositato dalla tosse, dallo starnuto, dalle mani della persona infetta che ha raggiunto il cibo venga manipolato dalla persona per poter essere in qualche modo fonte di infezione. Per cui in realtà l'evento è assolutamente irrilevante dal punto di vista epidemiologico e in ogni caso il lavaggio col bicarbonato è da ritenere più che sufficiente, visto che poi l'alimento viene consumato. Ma scusi professore, vuol dire che lei mi sta suggerendo di lavare comunque le verdure con acqua e bicarbonato o basta un lavaggio? Dunque, il discorso di lavare con acqua, bicarbonato, aceto e quant'altro è una cosa che viene consigliata indipendentemente in realtà dal coronavirus o da malattie che si possono trasmettere per questa via, perché è una norma igienica supplementare che noi non consigliamo ma che può essere estremamente utile in generale. In linea con noi, come anticipato, abbiamo il professor Perno. Professor Perno, vengo a lei come virologo, un ascoltatore, devo dire che leggendo la domanda di questo ascoltatore rispondiamo a tante domande, si parla spesso e si confronta spesso questa variante del coronavirus all'influenza tradizionale, quella comune di questi mesi, ma non abbiamo ancora capito, ci scrive l'ascoltatore, che differenze ci siano tra questi due tipi di virus. Professor Perno, riusciamo a vedere i punti in comune, i punti invece di differenza tra i due virus, così che capiamo bene? Assolutamente sì, buongiorno a tutti. La riflessione va fatta a monte perché sono due virus profondamente diversi, non solo strutturalmente, ma danno patologie diverse. Innanzitutto ricordiamo che l'influenza è quella che stagionalmente ritorna all'uomo. Ricordo che l'influenza è un virus degli uccelli, sì, che arriva ogni anno all'uomo attraverso percorsi molto complessi e produce la classica influenza stagionale. Quest'anno, sì, in Italia sono 6 milioni e mezzo, più o meno 6 milioni di persone infettate. I coronavirus invece normalmente sono virus umani che infettano l'uomo normalmente, non stiamo parlando del coronavirus in oggetto, ma ricordo che nella stragrande maggioranza dei casi essi danno un raffreddore comune. Essi, insieme ai rinovirus, sono la prima causa del raffreddore che ci prende stagionalmente, che ci prende d'estate, d'inverno, eccetera, eccetera. Quindi sono con noi sempre, ma non vanno oltre il rinofaringe, cioè la zona, l'alta via respiratoria, come si dice in senso tecnico, non danno polmoniti. Questo coronavirus invece ha la capacità di scendere nell'albero respiratorio per ragioni un po' complesse che risparmio ed è in grado di dare delle polmoniti. Da un punto di vista di circolazione, da un punto di vista di gravità, eccetera, il virus è molto diverso rispetto all'influenza. Quindi non c'è nulla in comune se non il fatto che diano una sintomatologia simile, ma su questo il professor Tavio potrà dare delle informazioni più precise perché è un clinico di valore. Io mi limito a dire che sono due virus diversi, con suscettibilità diversa, con ciclicità stagionale diversa, quindi non possono e non devono essere confusi, anche per le conseguenze che danno all'uomo. Professore, vuole aggiungere un dettaglio prima di passare ad un'altra domanda? Non particolarmente, soltanto il fatto che dobbiamo essere capaci di separare le due cose, perché sennò altrimenti facciamo una grande confusione. Noi dobbiamo fare diagnosi di influenza perché per l'influenza abbiamo dei farmaci specifici e quindi dobbiamo sapere se una persona ha l'influenza o no. Per il coronavirus non abbiamo farmaci specifici e quindi la diagnosi è soltanto per conoscere quale sia la situazione di quel paziente. Ogni giorno in questo spazio dedichiamo qualche minuto alla parola del giorno, la parola del coronavirus. Le utilizziamo di continuo, cerchiamo di fare chiarezza, di comprendere il vero significato. La parola di oggi è tampone. Professor Tavio, professor Perna, aiutatemi voi a capire cosa c'è da sapere sul tampone. Sappiamo che ci sono delle informazioni che non sembrano tanto chiare, polemiche. Cos'è? Chi deve farlo? Chi può effettuarlo? Possono esserci dei falsi positivi? Allora, intanto, professor Perno, che cos'è rapidamente? Allora, un tampone è in sostanza un grande cotton fioc, come dire, che viene utilizzato per prelevare le secrezioni del rinofaringe, quindi si fa nel naso, si fa nella bocca, eccetera, che nella persona infettata dal coronavirus porta il coronavirus, una certa quantità di coronavirus sul tampone, che poi viene trasferito in laboratorio per fare il test diagnostico. È un test di prima generazione quello che stiamo usando, ovviamente saranno migliorati, ma già è abbastanza significativamente valido e ci dà un'idea di quello che succede a quel paziente. Un paziente positivo presumibilmente avrà il coronavirus, un paziente negativo presumibilmente non ce l'ha. Attenzione al momento in cui si fa il test, perché il coronavirus richiede un po' di tempo per raggiungere in quantità sufficienti le vie respiratorie. Se facessimo un tampone il giorno stesso in cui una persona si è infettata, il test potrebbe essere negativo. Il tempo del test è molto importante. Nel sangue normalmente il coronavirus non c'è. Professor Tavio, chi può effettuare il tampone e chi deve fare il tampone? Ecco, questo è un argomento molto importante, perché si rischierebbe, se non si identificano bene i criteri con i quali eseguire il tampone, un consumo della risorsa sì. E anche delle risposte inappropriate. Allora, chi deve fare il campione? Fondamentalmente in Italia, cioè al di fuori delle zone rosse, è soltanto chi ha una sintomatologia di affezione respiratoria e ha un criterio epidemiologico di esposizione, ovvero viene da un'area rossa italiana oppure da un'area geografica, sostanzialmente la Cina, e si ritiene che possa essere stato esposto al rischio di prendersi questo virus. Sì. Questo è molto importante. Nell'area rossa invece lo fanno tutte le persone indipendentemente dalla esposizione, nel senso che tutte sono considerate a rischio, ma solo se sintomatiche. Le persone asintomatiche generalmente non hanno bisogno di fare il test, perché comunque se sono state esposte a un rischio significativo fanno la quarantena, che è di 14 giorni, come tutti sanno. Per le vostre domande ricordo il numero 335-100-6297. Trovate le vostre domande, alcune delle domande che stanno arrivando, ne stanno arrivando tantissime, sulla pagina che abbiamo dedicato. Noi continuiamo con gli esperti della Simita a rispondere ai vostri dubbi, cerchiamo di fare informazione e noi ci sentiamo a mezzogiorno per Obiettivo Salute News. Grazie al professor Tavio e al professor Perno. Noi ci sentiamo per questo spazio tutto dedicato a voi e gestito da voi domani alle 10.45 in diretta e ancora alle 6.15 del mattino. Grazie e buona giornata.